Pulpo, dimmi. Beh, mangiato a me. Adesso ho mangiato io. Perché? Perché stamattina, ma io ieri sera sono andato a suo fratello, senza giubbotto. Cazzo, stamattina mi sono svegliato, c'avevo il collo e nausea, di tutto va io, cazzo. Ma non avete fatto il pranzo? No, non ho fatto niente, lo faccio domenica prossima. Ho conservato tutto, carne, quanto ho comprato. La pizza lo facevano e ho... Quel dolore è troppo forte, non ho mai avuto mal di testa, il collo, mi ha inculato mi ha Hai beccato influenza? Sì, ma fa tutto in pieno, perché sono sceso senza giubbotto, capito? Ho camminato a piedi e in pratica quando cammini a piedi lo sai che ti scaldi, non senti nulla, ma al ritorno che era un freddo, grazie. Ho capito. Io notte c'è andato bene, tranquillo. Poi mi sono comunicato questa mattina quando mi sono alzato morto. Mi faceva male dietro il collo, mal di testa, nausea. Ho preso, non mi sono neanche alzato, mi sono dovuto piare il coso e... come si dice? Non l'auio l'altro. Per togliere il dolore. E ho mangiato alle 4, figurati, ho già mangiato mezzo pollo, già c'avevo appetito, vado male. Ho capito. Ma com'è che non hai preso la vitamina M? No, questa non la piglio io, già lo sai, io piglio la vitamina Z. Ciò ti fa male. Davanti già fa bene già. E dietro che fa male. Ti sei alzato questo canto del vento nuovamente. Il vento c'è. E penso ci sia anche freddo. Ieri notte minimo c'erano 3 gradi. 3-4 gradi. Figurati, a me mi ha trombato come un coglione ieri sera. La fa culo a me, cazzo. Ma il giubbotto niente, no? Senza giubbotto sono sceso. Sono sceso a piedi senza giubbotto e sono anche salito col tram. Ma come era tranquillo, ho mangiato patatine ieri notte, la pasta a cena, ma avevo pensato a svegliarmi con questo collo così con mal di testa, io non ho mai avuto. Ne ho capito. Allora, se non mi dica così, ma lo faccio, perché non c'è problema, già c'è tutto. Se sono libero già vengo. Ok, non c'è problema per quello. Domani mattina, se ce la fai, sono io al circolo. Vabbè, già mi faccio una scappata domani mattina. Io sono stato, apro 9:30, 10:20, sono già aperto. Speriamo che sia arrivato il coso lunedì. Questo data di città, adesso vediamo alle poste, c'erano le poste. Nella cassetta della posta, voi andate da controllo, verso le 10:30. Se è arrivato la cassetta, vado immediatamente in banca. Ho capito. Perché tanto non te ne danno soldi se non c'è la carta d'identità. Oh, quel foglio già ce l'ho, scritto il numero della carta d'identità nuova, capito? C'è anche la fotografia a quel foglio. Il problema è che non si legge il resto. Hai capito? L'ha fatta col coso, col computer, ma evidentemente c'aveva la stampante che è mezzo prosciugata. Ma non c'hai una fotocopia che si lega il nome e tutto quanto, e si vede la fotografia? C'è scritto tutto, c'è scritto la foto, il nome, la data di nascita, il numero della carta d'identità, c'è scritto anche non rinnovo, sostituzione là, per smarrimento c'è scritto. Ho capito. No, non mi fido, cioè fammi la fila e poi magari no, questo foglio non va bene. Mi si girano le balle, preferisco aspettare un po', tanto non succede nulla, tanto lì. Questi giorni ci sarà, come si chiama, la fila che cosa mala. Sì, perché ci sono i soldi di quelli dell'Inps che stanno ritirando. E vabbè, i soldi dell'Inps non è che li tiri da i crediti, no, vai direttamente lì alle poste e li tiri. Per carità. Poi non è che sia un problema quello, perché è un bancomat, quindi vai fuori della banca e ritiri in qualsiasi banca, penso che dovrebbe funzionare, compreso anche le poste, non lo so come sia. Io non ho ancora vista questa carta, se la vedrò a novembre la utilizzerò, adesso vediamo. Guardate che interessa a me adesso la caterità per fare il foglio IS, perché altro. Una volta che ho quello faccio il foglio IS e sono a posto. E poi faccio una domanda. Sì, va bene. Io adesso dobbiamo andare a casa di Gavino a trovarlo e rimaniamo un po' lì e poi me ne rientro. Ti è rientrato? Già rientrato, è rientrato avanti. Sì, salutamolo allora, appena arrivi lì. Chi è? Chi è? Avanti. Bellucci. Ciao Giomarino, buonasera. Buonasera, che c'è Antonello? C'è anche Antonello. Avanti Antonello per Giomaria. Sei basso Giomarino, ma dove sei? Vento in cantina. Sono Giuseppe. Ha detto che sei basso Giomarino. Sono Gombino a sua parte, capito? Non lo sento nemmeno io a lui. Ma pensavo che eri a casa tua. No. Vai, vai. Chiacchierate. Che sto facendo cose. Va bene, dai. Hai capito Antonio? Io già l'ho sentito adesso. Ciao Giovanni. Ci sentiamo dopo al limite. Campagna è casera. Come tu freddo? Freddo, no, fin era freddo. Sono qua a farci un po' di mangime a riatti. E a baitare così e basta, mi sono cazzato. Ma c'è freddo. Freddo, questo freddo vicino. E io sono come da tre stati quando fare campagna. Certo. La Puglia sono qui tra le... non finire a freddo, ecco. Ma ci faccio il giretto, ivi, ma no. Non finire a freddo, dice. Beh, il freschetto, beh, però non è il suo fresco, là. Ehi, allora tu cosa lo sto finendo adesso. Allora, 85 e 99 affacciato. Che cosa? L'8.009 di cosa? 85 euro e 99. Che sono meno lì due, ancora giù un preso. Ma c'è più barato, c'è più asso, perché so pure da 7 dedi, secondo le ditte, capito? Ce n'è anche uno da 3. Allora, aspetta un attimo. Allora, da 66. 67 79 tre tanti prezzi, capito? Certe ditte ce ne hanno alti prezzi, certe ditte ce ne hanno più bassi. Mi sono un me in costare poco, ma mi sono un me in costare un me, certo, capito? E sono sempre precisi, secondo la ditta, capito? Come tutti gli altri apparecchi, ma te. Quindi i costi di 3 kg, costi di manco 3 kg, per esempio, dalla Cina, cozzare poco, e in Germania cozzare ne manco. Catta, in coso il Regno Unito costa di più, è più di più pura anche la spedizione, vuoi immaginare? Vedi, c'è anche un miscellatore a due uscite costa 5 euro, prodotto pulito, 5 euro costa, 1,19 euro di trasporto. Boninghi, FC Combo, SAT, Giappone, miscelatore, SAT, UHF, UHF, in acciaio, a due uscite, 5 euro più, prodotto, ehi, chi si dà lo... oh, bravo, ma non vedi comprare più nulla da solo scala, oh. Per cui la bassa e a finire la roba è bella buono, però cosa ne fermo? Noi fermo niente, non compriamo nulla, ah, ma il tempo è bassa e ogni tanto faccio accendere il computer, mi la baito e tira davanti, beh, cosa ne fai? Non fai niente, ma ve la fermo e anche troppi su va fermo. Per cui siamo tranquilli. Oh, stavo guardando il coso, come si chiama? Fa culturale l'FVR. Ce n'è uno qua, digitale. Allora, mini digitale, VHF, VHF, a due vie, radio, cover, SVR, meter, 33 e 29, digitale. Vabbè. Ma quello l'ho pagato, 78 io. Però fa tutto, come abbassi la portante, dici. Salvi, la portante. E le come si dice, segnale e le infatti il segnale e le stazionarie, tutte e tre fasi, capito? 78 80 no set, e 78 mi pare che l'hai pagato, è piccolino, va bene. Poi ci sono quelle a quattro vie. Quello fa tutto. C'è della Diamondo, quello è della Diamondo, invece quello che ho io è della Nissan. Ah, oh, qua ne uno qua davanti, della Diamondo, Rosmet Wattmetro, 1.8, 200 MHz, 5 spesi, 200 Watt. Nuovo, questo costa 87,89 centesimi, e il trasporto quasi 100 euro là. Canto? Quasi 100 euro, mi ce n'è uno qua della Diamondo, 200 watt, 7 euro, 8 euro di trasporto, 107,80 euro. Ecco, è bello quello della Diamondo, anche della Fayette, c'è anche la Fayette, il 1000, sì, l'X1000, fa tutto, dall'A alla Z, tutto fa, dall'A alla Z, c'ha quattro attacchi dietro, due per la KF e due per VEU. Capito? Qua ce n'è uno con gli aghi incrociati, 160 euro, insomma, 160 più di trasporto, 160, non so se incarnigato, 151, c'è questo 80 euro. Rosmet Wattmetro Diamondo SX di 200 watt, HF VHF 200 watt, no, andava insomma, è solo HF VHF. X200, no, no, fa solo HF quello lì, ce l'ho io il 200, capito? No, fa tutto, capito? È solo HF e basta, ce l'ho io. C'è questo, è piccolino, non ti barate tu. SVR, SV. SW33 mini digital VHF VHF cover SVR Messer 100-520 MHz costa 37,90, ti dà quello lì ed è digitale e ci sono 4 adattatori, là ci basta carusino, solo uno rimasto, spedizione gratuita, chissà se è buono. Che marca è? Allora, marca del sito, mi digital, UHF, UHF, POP, se vuole mettere. Non viene marca, è tutto così. Sai, già c'è scritto, aspetta lì, grandisco, aspetta lì. Si chiama SV33 Mini Digital UHF UHF Power SVR Meter 100-520 MHz. Non ti dia se è Power Meter, così si chiama. E poi la potenza mi. Non mi ne nomi, dove scritto così SW33 mini digital UHF UHF Power SVR Meter 100-520 MHz. Oh, condizioni nuove, è nuovo, uno solo ne rimane. No, ultima offerta di un mese fa, 37,90 costa. Signor Figaro. Dimmi. Mi sente, signor Figaro? Dietro! Signor Macchi, avanti. Buonasera, buonasera. C'è il rosmetro, quello che c'ha tre digitale, che c'ha il rosso, giallo e blu. Forse è quello. Così è, grazie. Grazie, avanti, sì. Io so che no, sono andato a casa. Se ci sentiamo da casa, se vuoi mi dà una spiegazione. Vai. Che qui è un coso rettangolare, c'è un'entrata e un'uscita nelle tre facce. Ed è digitale, per cui 8. Poi ci sono a fianco, c'è più e ci sono 4 adattatori per il filo del freno. Se sono 4 adattatori vuol dire che fa anche HF e VHF. Adesso le grandi scuse a me. È così come ti sto dicendo io, se c'ha 4 attacchi dietro fa HF e VHF, capito? Lo strumento dove c'è scritto SVR 33, giusto, c'è un pulsatino on off e c'è in coda un'entrata e sopra l'uscita e l'uscita. C'è il display, c'è scritto 888, antenna, sì, e 10 è sotto il barattino e vestito l'antenna o la freccia, la sta qui sopra. E sotto a collega al baracco. E digitale deve essere. E va c'è attacchi lì, ci puoi sposti da on per spento, da off lo sposti a on e ti segna le stazionarie, insomma. Ma quelli non conviene più, capito? Conviene a prendere quello che c'è, il display è quasi triangolare, capito? quello è giallo, arancione gli disfleccia, è piccolino e fa tutto quello. E dice i 50, poi c'è anche i 70 che fa, anche tutto fa. Boh. Però per noi, a noi ci serve per la 27, capito? Poi ce n'è uno piccolino, come quello che mi aveva venduto, Natalino, solo qua c'è per il PMR, quello che c'ho io è per la 27, ed è digitale, allora, che c'è tanto c'ho io, quell'affarino quadrato, un'entrata e un'uscita, c'è la 27, quello che mi aveva venduto Natalino. Aspetta, ti faccio vedere quello che ho io, va bene? Fammelo vedere, perché per il PMR non è io, ma cazzo, dici tu, cazzo, dici 43, 50, no, di più, quasi 60, Luca, ci sei, mormito, sì. Ciao, grazie. No, mi sto preparando gli asparagi. Mi ho fatto un po', dai, per farmi la pasta. Sono già passati ormai, non vi neghi, già, non ce n'è. Intanto giusto per farci due pennette. Beh, la gente la fanno, prima la banda si abbia nessuno. Avandani tutti. Ma è come te la gioca, la giochista. Certo che una di sette vi dice subita in campagna, davanti alla campagna, quello lì vecchio, tanti anni fa era pieno di giubita, ci andavano per manco una buccia. Bruno si immagina, vabbè. Questo mi piace, però cazzo, questa troppo. Questo è 76. No, ma questo mi sembra tanto, arrivato chi è? Adesso guardo. Ah, ma questo è piccolino. Praticamente questo è come quello che c'ho della 27. È uguale a questo, cioè questo è per il PMR, quello che c'ho io è della 26. E ma che su cui sarà ingassata questa? Aspetta, va, ti dico io, a me non mi piace così. C'è questo con gli aghi incrociati, è questo, aspetta, così a me, questo mi piace. 70 euro, 69 euro, chi c'è questo, Vai, questo è 78 euro, questo che ti ho mandato io, è bellino, tu come abbassi la portante ti dà il vate, il segnale e le stazionarie, senza toccare niente, tu abbassi la portante ti dà, e ti dice tutto quanto, ti dice, ecco. Questo che ho io, ed è digitale, non devi toccare niente. Tu abbassa la portante e ti dà tutto. E mi ce l'ho qua uno dei tre, di fronte. Nissei si chiama, Rosmetro, wattmetro digitale ERS50, UHF e UHF. SR70 HF più 6 metri. Nissei Rosmetro, wattmetro digitale, UHF, Rosmetro 70 HF, Rosmetro, wattmetro digitale, lettura contemporanea della potenza diretta rilevata del rosso. Costa in occhi 78 euro. Come l'ho pagato io, 78 io. Ed è preciso questo che ti ho mandato. È uguale. Ma a me mi piace questa qua. costa 75, ce ne ha uno 60 euro, quindi l'offerta, ed è un'offerta, ed è quadrato, col display, esce lo ingrandisco qua, vedi. Allora, vedi, aspetta un attimo. Ma con questo che ti sto dicendo io, non devi toccare niente, mentre quello che hai tu devi toccare il bus, c'ha un pulsante mi sembra che ci abbia. Luca! Questo si chiama SX400, rometro, wattmetro 1040, 525 MHz, 400 watt, 12 dopo, vediamo. È bello questo, il SX400 si chiama. Mandamela avere un po', qual è, dai. Ma chi può? Non lo so fare io a mandarlo, a fare la foto, nel computer lo sto guardando. Si chiama SX400, rometro, wattmetro 140, 525 MHz, S400 watt. Ah, si può. Un attimo, Bacchi. Tu fai questo col telefonino, le fai la foto. Ah, lo metti solo al capo e me lo mandi. Non lo so fare. Le mandi sempre la fotografia e lo fai. Tu fai la foto col telefonino. Ecco, tu c'hai il telefonino e lo stai guardando, così è. Ma non è colpito, lo sto guardando. È come quello tipo che c'ha Luca, questo è quello che c'ha Luca. Quello, Luca, ho capito. E vabbè, dai, se lo sai fare, non importa. Avanti, Bacchi, riprendi. Sì, ok, buonasera. Buonasera Graziano, buonasera Gian Maria. No, l'informazione mi serve sul rosometro, questo ce l'hai come questo. Tu sei quello che c'ha il tasto rosso, blu e giallo, Gian Maria. E lei sa che ce l'ha sopra? No. C'ho quello della Nissa io. Quello della Nissan digitale è piccolo, ingresso e uscita, e ti dà tutto. Quando abbassi la portante tu non devi toccare niente, tu abbassi la portante e ti dà il rate, il segnale e le stazionarie, è normalissimo, capito? Sì, allora questo qui adesso io l'ho attaccato. Quando parlo si lampeggia la luce, la rossa diventa blu e mi segna sopra il watt, ci sono 10 watt in uscita, poi mi dice la frequenza 44, 60, 81, poi mi dice USVR 105, è così? Questo fa così spesso. Ti dà la porta, ti dà le, i fatti, il segnale e l'SVR, non c'è altro da guardare, capito? L'importante è tu, vuoi sapere quanti fatti esci, la prima cosa è i fatti. E il secondo passaggio ti dà le stazionarie e il segnale a fianco, capito? Tutti di una volta, non devi toccare niente, nulla, tu solo devi abbassare la portante e basta. Sì, ma il tasto blu e quello giallo cosa servono? Ah sì, non ce ne sono, no. Non ce ne sono le tasti, ci sono due tasti davanti, ma uno per accendere la luce, capito? E l'altro per cambiare da una frequenza all'altra. Dopo non cambia niente perché esce un sacraccio di scritte e non finisce più. Non hai capito? Un sacco di digitali. E poi è scritto tutto in giapponese, italiano, non fai un piffero. Ma che io non ce l'ho, se no te l'avrei mandato. Non ce l'ho il numero tuo, se no te l'avrei mandato, capito? Tore l'ha visto, mi sembra che Tore te l'ha fatto vedere, mi sembra che ha controllato anche le stazionali tue. Torre ce l'avevo un paio di giorni. Non l'ho visto per niente, Torre. Se sento Torre magari mi sa spiegare qualcosa com'era. Perché adesso questo qui, il VAT, mi segna sopra, no, mi segna prima il VAT, poi sotto, nella riga di sotto c'è scritto la frequenza, poi sotto ancora c'è il rosmetro, che il numero è in grande, esce proprio bello grande, 104 di rosmetro sotto. Ce ne sono tanti tipi, Bacchi, ce ne sono tanti tipi, capito? Ma c'è anche quello del Merono, a me non mi è piaciuto quello a frecce incrociate, quello non mi è piaciuto, ce l'avevo, ma no, l'ho dato, non mi piace quella freccia incrociata, preferisco quello a uno strumento, a una lancetta e basta, capito? Lo sto dicendo, è questo, è quello piccolino che c'ha lo strumento, il display giallo. Se te lo guardi al computer è facilissimo, Nissan digitale, e SVR è la potenza, capito? Il 50, Nissan 50, e te lo dà subito. Cioè vado a vederlo al coso, mi porto sul telefonino e lo vedo qual è il tipo, e così ti dico com'è. Fai così, lo sai che tu fai Nissan, fai così, rosmetro, vattametro Nissan 50 digitale, e te lo dà, vai. C'è la Luca, ha fatto la battuta, c'è la Luca Montanaro. Luca, sei pesso, grazie. Questo è bello, esce a venire fresco, È bello. A chi indicato il coso, grazie, la 27, capito, mia, a chi è la 27? A me piace più questo qua, no? Allora, sono stato guardando questo un attimo, qui ci va, l'ho fatta a 5 euro, però, c'ha 4 cosi, 4 attacchi dietro, questo si chiama SXZ 601 Rosmet Wattmetro 1.8 170 MHz 140 525 MHz da 5 a 1 kW. Riferimento SX601 condizionale Prosser SX601 Rosmet Wattmetro 1.8 170 MHz 140 95 euro tassa inclusa. Se ti piace piglia, te lo so che ti dica. Ho detto accendi tra 27, grazie che meglio. Bello proprio, c'ha 4 attacchi dietro, c'è un pulsante, un pulsante a destra, il sensore, e se vuole per me, un pulsante a destra o a sinistra, aspetta, sto andando bene. Gianmarì. Tra 27, accendi, ce l'hai bacio. Sì, sono su adesso. Allora, quello che hai tu c'ha le luci gialle, così è. C'è il display giallo, Ecco, costa 79 euro quello lì, più 7,90 euro di spedizione, ed è un ICRS50. Esatto, è quello che c'ho io, quello lì, che era un dottore a provare a misurare i stazionari, anzi mi stavo dicendo che forse misurava anche i stazionari a te, e si vede che ho si è dimenticato un altro tempo. Torre già l'ha visto, è preciso, ed è buonissimo, piccolino, ed è bellissimo. Il mio c'ha la luce bianca con la scritta in nero, ed è un... non lo leggo, sono al buio, vabbè, poi te lo leggo. E c'è in su cosa, di B mi sembra ce l'abbia, adesso lo cerco, ti dico com'è. Così lo trovi anche tu. Questo qua, tu abbassi la portante e ti va. Infatti che stai uscendo e quando si attirare sai e il segnale a fianco, boh, e non devi fare niente, tu lo devi toccare, come tu abbassi la portante, lui si accende e ti dice tutto quello che c'è. Questo qui è la stessa cosa, come è acceso, come abbassi la portante ti dà la frequenza, e prima ti dà i watt, poi sotto c'è la frequenza e sotto ancora poi in grande ti dà il ROS. Ah, ma ce l'hai già tu? Come? Ho capito, ma... Aspetta, questo qui, di sopra ti dà i watt, quanti watt stai uscendo. Poi sotto ancora c'è l'altra scritta e c'è la frequenza, ti dà la frequenza che stai uscendo. Poi sotto ancora in grandissimo, con i numeri abbastanza grandi, fa 1-5, lo vedi? E ti segna il ROS. Beh, su per giù sarà come questo. Però l'unico era questo, c'era l'altro il 70, che io avevo preso il 50, invece mi avevano mandato il 70, e però non mi serviva il 70, mi serviva il 50 e l'abbiamo rispedito, mi hanno mandato il 50 ed eccolo qua, e va benissimo, è bello, tranquillo, piccolino. Non ci sono problemi. Oh, c'ho quello della Diamondo, il 200 anche, e per cui anche quello me la misura bene, capito? Però questi qua secondo me sono migliori, questi direttamente, come abbassi la portata, sai la potenza è l'SVR e il segnale, capito? Allora mi l'ho trovato. Su Amazoni, c'è cioè su Amazoni questo, quello che ho io, ed è un GM4, GM30, Succheron, SVL 102, digitale, VHF, e dunque misura la potenza SVR, cosa, due pressioni d'acquisto, una partita da 48,99 euro, capito? Poi c'è l'altro. Ce ne vanno tutti con ancora. Ma quello che c'è tu è il 50, l'RS50, Giovanni. Oh, c'è scritto solo Missal SVR Power Mettere basta, boh. Missal 50. Il Missal 50. Ehi, qua ce l'ho, qua di fronte, Nissan Rosmetro Battametro Digitale SR50, UHF, UHF SR70, HF PCM, e guarda quello che c'è, 78 euro, con le spese, spese 78 euro, vieni. E così l'ho pagato io. Quello, l'unico è quello lì, boh, non devi creare altro, capito? Lo puoi lasciare o attaccato oppure lo distacchi e vai normale, capito? Siccome a te ti interessa per le stazionarie, lo puoi attaccare, se vuoi lo lasci attaccato, no, lo distacchi e sai già cosa c'è, cosa non c'è, capito? E boh. E accende la 27, ti ho detto. Allora Gianmarì, se tu guardi su Amazon c'è quello che ho io, capito? Cioè, qui ad Amazon costa meno di Torino, addirittura qui costa 49, a Torino 60 euro. Ah, il display, la lancetta, quella quattro attacchi fa, quello lì fa per la 27 e anche per il PMR. Quello che ti stavo dicendo. Eia, ti senti accavallati tu e Bacchisio, grazie, aspetta, grazie. Dimmi Bacchisio. Ti ho detto, se guardi su Amazon c'è quello che ho io, preciso identico. Solo che mio cugino le ha pagate 60 euro l'uno. Qua da Amazon costa 59. Ce ne sono, mi sembra, 3 o 4 che su per giù, e quello che più le costa è questo qua che ho io, capito? O il 70 e il 50, ma poi gli altri variano i prezzi, ce ne sono anche di 90, mi sembra, della Diamondo, capito? CX400, CX200, sempre della Diamondi, CX1000, che è l'unico, quello fa tutto, è dalla alla Z, l'ho fatto attaccare all'apparecchio professionale, fa tutto quello lì, capì? Il 1000 della Diamondi, anche di quello della Fayette. Anche della, c'è anche quello della Prozit, ci sono tre o quattro marche, ci sono precisi. Sì, no, sono tanti, questo è nero con la scritta in bianco, ripeto, il display è bianco con le scritte in nero, c'ha tre tasti, ne ha uno rosso, uno blu e uno giallo, e non so questo blu e questo giallo a cosa cavolo servono, e poi a fianco c'ha una manopolina piccolina, non so che cosa sia, boh. Ti ripeto, è scritto in cinese, non è scritto in italiano, non capisci un H. Già l'ho visto quello lì, cioè il display quadrato, già l'ho visto, infatti c'ha tre pulsanti, cioè. Ma no, non mi è piaciuto a me quello. Ah, questo va bene perché non devi né toccare nulla, non devi toccare niente. Il display, se lo vuoi accendere lo accendi, se non lo vuoi accendere lo lasci che funziona ugualmente, capito? Però con il display c'è una batteria da 1,5 e basta, ma può funzionare con la luce accesa oppure senza luce accesa, non devi fare niente, abbassi la portata e ti dà quello che desideri, capito? Infatti questo è così lo stesso, se non calchi la portante non ti dà il segnale e rimane acceso, sì, però non c'è segnale, cioè questa c'è la batteria incorporata, cioè il caricabatterie, a parte mi hanno mandato un caricabatterie perché la batteria è incorporata, anzi due caricabatterie, uno non so a cosa cavolo serve perché noi di quelle prese così non ne abbiamo, è la presa italiana. Infatti la batteria c'è solo. No, questo qua c'è, a me mi ha rotto solo un cavetto perché si può attaccare al computer per cambiare tutta l'attrezzatura, capito? Ecco, c'è un cavetto del USB che lo puoi attaccare al computer per fare tutto quello che vuoi, capito? Se no lo puoi usare normalmente. Come ho fatto io, a me non mi serve, io non lo attacco a computer, l'ho messo a posto io direttamente a mano ed è perfetto, dai. No, lo uso così io, senza nulla, e lo accendi e ti segna le stazioni, infatti ho guardato, questo mi dà 1,5 di stazionaria l'antenna che ho io, poi un'altra antenna me ne dà 1,29, non so cosa sia questo 29. Ma guarda che ci sarà il punto, sarà un punto per sapere dopo il primo numero. Sì, cioè, adesso con questa antenna è 1.05. Ecco, tu c'hai 2,5. 1.05. Allora c'è un watt 0.05, boh, un watt e mezzo, ma un e mezzo di stazionaria. Sì, un e mezzo di stazionaria. I watt sono 10 watt sta dando. Vabbè. Vabbè, dai, diciamo i 27 che è meglio queste cose. Sì, andiamo i 27, io. Allora, dai, è meglio qua, no? Graziano, bello gatto, allora non ha preso a cura Graziano, Che? Pedro dice. Luca! E io? Otto! Domitoshi! Luca! Domitoshi! Finita di cucinare tu! No, sì, sto cucinando ancora! Ancora! Ehi! Vabbè, già lo so dove abito, passo dai, pure assaggio e ti farò sapere. Allora ho fatto gli asparagi con la pancetta affumicata, ma la panna ti faccio due pennette. Oh yeah! Così sì che è bello passare il tempo, Infatti, io ho la vita visione, ho. Non fumo già da un po' di anni, bevo quasi niente, ma mangiare non me lo devi fare, sono su comosco. Oh yeah. Va bene. Sei d'accordo con me? Vabbè, ci togli anche quello, non va bene. Facciamoli fumare quelli che fumano, noi mangiamo, chi se ne frega. Poi, se c'è qualche chilo in più o qualche chilo in meno, non problema, ce lo teniamo lo stesso. Stati malissimo, non muori, fregatene. Cosa? Sì. Per carità, oh yeah. Beh, non c'è nessuno stasera. Oh, c'è Radio Maria, Graziano, boh. Luca, mi sa che è ancora fuori, da consuocero. Già lo so, ho mandato un video. Alcolizzato, eh. La so qua, ci ho fatto il peggio. L'ho visto. Sì, qua, in zona. Ah, Luca, sei vicino qua? E dove sì? Dato 25. Ah, positivo, sì. Tu dove sei, in zona? No, a casa. No, pensavo che te l'avevi messo a casa, capito? Ma qua con questo qua. Quando vado via tra un po'. Lo metto a caricare e me lo uso qua, poi quando ho la possibilità, adesso non ho la possibilità, mi serve un po' di campo, capito, per sistemarmi tutto. Capito. Comunque gli asparagi sono usciti buonissimi, non so se ti piacciono a te, boh. A voglia, no, già mi piacciono. Ne ho fatto tanto giusto per fare due spaghetti, due pennette. Sì, no, oggi sono buoni, caspita. Chi è? C'è uno che sta provando, ma lo sento basso, quasi in mezzo al correme io. Oh, non so manco chi sia. E poi ho fatto casino con l'altra radio, mi devo leggere il manuale, ma non aggiugana. per fare il buffo continuo, capito? E va nelle impostazioni, no? Non è semplice, non è così semplice. No, non sto parlando del Waufen, capito? Ho capito dell'altra, ho capito. Vabbè. E già Massillo, è la volta che Massillo già brideci. Ma sono cose che devi fare quando ne hai voglia, non quando sei stanco e non è gara. Sì. Casino, sono un po' stanco, eh. Riposati allora. No, così mi prende la zena, devo mangiare e poi vado, mi faccio accompagnare a casa. Abbiamo un bel vinello fresco, rosso, buono, eh? Va bene. A me stasera hanno rubato una Piaggio Quargo, quella un motocarro là, Celestino. Che un Piaggio Quargo? Piaggio, quello a quattro ruote, è tipo una motocarrozzella però a quattro ruote, capito? Dove? Monte? C'è scritto Sassari e basta, non so la zona, ha messo la targa, chi lo vedeva se lo si poteva avvisare, però. Non puoi stare più tranquillo, o te la poni nel fuoco o te ne avvurani. E allora? Sempre che non lo trovi, perché se lo trovi allora. Io dico, passa liscia. Ti sei accostato tu, non ti sento. Ho detto che se lo trovi, se non sarà passa liscia, tu cosa ne dici? Poi questo qua, poverino, sicuramente lo utilizzava per lavoro, perché ha messo una foto che era a carico, quindi niente, ti rubano un mezzo del genere, cazzo, è un casino, rimane a piedi, senza travaglio. Lo so, poveraccio. Vabbè, vediamo se lo trova poi. Sto lavorando, stai? No, sono fermo, adesso devo aspettare una risposta perché abbiamo ordinato il materiale, però finché non arriva non si può fare niente. Quindi credo che oggi, domani, rimarrò fermo ancora. Chissà, forse anche dopodomani, non lo so. Adesso vediamo. Io qualcosa già la sto facendo, da poco a poco, sempre i miei lavoretti, eh. Stava bene. Guarda, se sentite qualcuno che vuole qualche telefono, ce l'ho, eh. Sto prendendo un S5 e un S4. Tutti e due in ottime condizioni, con batteria nuova. perché mi posso cambiato, me ne sono preso uno superiore. Capito. Quanto? Le 6.5? Le 6.5 non me lo dice 250. Va bene. Quello un po' là, perché non so se sento qualche duno. Mimmi, questo qua lo sparaggi a 11 euro. 11 euro raccolti stamattina, 11 euro al chilo. Ah, si bu. Stavo rubando la piazza. Io vado all'indibata, ti mi direi tu, non so se hai visto il video che ho messo su Facebook. Vado all'indibata, porto così, dai, ho tutte, mi porto un po' di pasta e poi me le faccio con le uova. Ma l'indibata non li tocco. No, vabbè, lo dico, 11 euro al chilo, quanto è? Poco o molto? Regalati i sotti, regalati. Io mi ricordo, vabbè, l'anno scorso li ho comprati da una persona che lì al monte, che per necessità, e mi dava 40 o 60, no, 63 euro. Buoni, buoni. Buono? Uno è costruito, le dà 75 euro. Voglio rifarlo. Avanti. Almeno qualche usina se la fa, va? Certo, però ti sai cosa è. Per dargli al regalo me li mangio. Chi ha bisogno? Mi senti, Tino? Adesso sì. Ma che capo di cazzo? Ma io ti ascolto. Sì, quindi. Vai tranquillo, già ti ascolto, fregati. Vabbè, poi ho portanti non. Sì, vabbè, già a me ha. Adesso l'hai passato, dai, tranquillo, benissimo. Prima no, ma adesso l'hai passato bene. Ehi, vabbè, lasciamolo. Mamma mia. Niente, sì, ti ha messo la portante. Ah, sono. Sei quello sul divertimento? Sì, fatela mettere in faccia la portante, se ce la faccia la corda. Vedi, un gusto che c'entra malannica. Ma ti rendi conto, adesso uno stava parlando tranquillamente. Parli del coso, non gli piace. Parli seriamente, non gli piace. Cosa stai a fare, non ho capito. No, è Tino quello. Tino è più lontano, chi è Luca? Sì, io non riesco a capire chi sia, capito? Io sono. Ma chi? Luca, no, perché c'è un divertimento, capito? C'è qualcuno che ci gioca. Bene, Meda. Tino, buonasera, mi ascolti? Ehi, già ti ascolto, ciao. Ehi, lascialo fare, potevi dirmi. Non vi chiedete se vi pigliate o cassi. Uia. Bene, dai, stavo ascoltando, continuo ad ascoltare. Continuate pure, scusate l'intromissione. Ciao Luca, ciao Tino, buona serata. Ehi, Tino. Sì, che ascolto. Marchisio, ci sei? Sì, mi ascolto Tino e Luca. C'è questo che sta fischiettando, quindi, guidato da Tino. Poi si salto fuori dal recipiente. Continuate pure, qua se ho io vi ascolto. Il Tino non ha ascoltato, ce l'ha portante. Va bene, dai, continuate. Sì, ti ascolto un po' male, sei fuori frequenza. Vabbè, dai, lascia questo. Non riesco, devo fare una cosetta in questa radio. Ah, ti ascolto benissimo. Ehi, vabbè, ma con l'altra devo far passare a 25, quindi lo devo correggere, capito? Vabbè. Vedi di vestimenti, Guarda, io non lo so perché non lo sento neanche, però che sia vicino a te. Non so se ce l'ha con me, ce l'ha con te, Ma non me ne frega, lui. È che. È sicuramente vicino a te, perché io non lo sento neanche. Troppo vasti i gusti, no, dietro la radio. Non lo sento. Se ha qualcosa te lo dice, o te lo dice, non c'è problema. Vabbè, oggi non sei combinato, niente. Parlo zitto, cosa vuoi fare? Beh, ma tu vai. Cos'è Lu? Niente, no, niente in particolare. Oh, mi stavo aggiustando un po' il toserba e dopo mi sono messo a cucinare. Ah, ho capito. Sì. Vabbè. Quando si cade bagna poi? No, vabbè, oggi me l'ho presa con calma, mi sono alzato tardi, quindi quando mi sono svegliato, sono una cosa e l'altra, sono uscito da casa che erano le 10. Sono andato in giardino e mi sono messo a tagliare l'erba. Se mi dà la barba in campagna, Sì, va bene, però già va bene, sono per noi. Avete tre? Ci sei? No, non c'è nessuno, sono in ascolto anche lì. Grazie, ci sei? Ma chi? E lì! Lo senti a Gascolto? Attino! No, che sono Gogonnino! No, non mi senti? Ah, ho capito, va bene, là. Oh, cos'è capito? L'abbiamo trovato, anch'io. C'è Graziano, ecco. Su 23, adesso l'ho sentito. Oh, no, mi devo allontanare la radio, dai, sentiamo dopo nel caso. Tino, ci sei? Chi è? Chi è questo canale in fischio? Chi è? Chi è avanti, Igandu? Avanti chi è? Buonasera. Avanti chi è? Chi c'è in questa frequenza?